Allora, eccoci qua di nuovo dal Centro Sociale Angelina Cartella, dove si sta preparando la manifestazione in solidarietà del Centro Sociale che è stato dato alle fiamme lo scorso 15 maggio. Qui con noi ci sono dei compagni che vengono da Taranto, provincia, insomma. Questo testimonia che il Cartella è conosciuto un po' in tutta Italia, come dicevamo prima, anche con Peppe. Allora, io la prima domanda che voglio farvi, poi dopo a ruota libera, ok? La prima domanda è: perché da Taranto prendere un pullman, giusto, per arrivare qui a Reggio? Chi vuole rispondere a questa? Vabbè, con i compagni del Cartella, le compagne ci conosciamo da 7-8 anni oramai per le questioni politiche e sociali che ci hanno comunque avvicinato a livello nazionale e quindi era il nostro dovere comunque restare a fianco appunto dei compagni e dare solidarietà, sembrava il minimo. Io poi sono un artista, faccio il cantante nella vita, sono un rap militante, sono sciamano e sono venuto già 2-3 volte a suonare qui al Cartella, quindi era inopportuno non esserci, quindi oggi daremo il nostro contributo, speriamo che la situazione si riprenda presto, soprattutto il Cartello, perché è un punto di riferimento fondamentale in questo quartiere, in realtà del sud, che sappiamo che sono schiacciate comunque da una politica che ha lo stretto legame e contatto con gli apparati mafiosi. E Taranto in realtà è una città che negli ultimi giorni ha anche vissuto momenti abbastanza difficili, insomma, so di queste elezioni, di un clima, mi raccontavano, abbastanza pesante, anche di fascisti pronti con coltelli ad inseguire le persone che strappavano i loro manifesti. Non so, io ho sentito questa cosa. Comunque il clima, mi pare di capire, non sia proprio tranquillo a Taranto, o sbaglio? Magari mi volete raccontare un po' che cosa succede e quali sono le vostre prospettive future? Ma allora, ci tengo più che altro a, non dico a smentire, però insomma a ridimensionare molto la situazione, perché in verità Taranto, è sempre stato fatto un lavoro di antifascismo sicuramente alla base, radice, all'interno dei quartieri, quindi il clima era un po' meno teso. È chiaro che la città comunque ha dovuto fare i conti con un ritorno al passato, fra virgolette, perché penso sia nota a tutti la vicenda legata al sindaco di Taranto, ex sindaco di Taranto, Giancarlo Cito, attualmente al fresco. E quindi si era ripresentata questa occasione, tra virgolette, per la famiglia Cito, perché aveva candidato il figlio, che comunque è riuscito a mandare, insomma, al ballottaggio l'attuale sindaco, insomma. Però ripeto, la città di Taranto comunque ha avuto negli anni passati, specialmente negli anni 90, quando si è vissuta la fase più forte del citismo, ha vissuto un antifascismo comunque radicato nel territorio, ha fatto sì che comunque il pericolo rimanesse abbastanza lontano. Insomma, poi per il resto non abbiamo, diciamo, attualmente non abbiamo di questi pericoli o di queste situazioni, anche perché c'è stato un forte ricambio generazionale a Taranto, lo dimostrano anche, insomma, siamo arrivati, comunque sono parecchi ragazzi come me soprattutto, che non ho mai avuto l'occasione di venire qui, insomma. E quindi c'è forse questo ricambio generazionale molto, molto importante. E insomma, sì, posso. E so anche, insomma, di questi progetti, vedo qui dei volantini, non so, volete parlare di questa, iniziative che sono in corso? Non so chi vuole di voi, vedo che ognuno di voi dice io sono circondata da tarantini, ma nessuno vuole parlare. Chi è che vuole parlare? Allora, qua, insomma, c'è qualche compagno che ci vuole aggiungere, giusto? Più che altro stasera faremo un intervento artistico per dare un contributo, per sostenere il Cartella. Faccio un quadro generale: stiamo vivendo un momento di tensione generale, vedi ora qui alla Cartella, e poi la situazione a Genova, la tragedia che è accaduta a Brindisi e altre situazioni. Vogliamo comunque, attraverso l'arte e la politica, sensibilizzare, avvicinare di più il pubblico a smuovere un attimo le coscienze, per far capire, non dico in un cambiamento, ma almeno in un miglioramento, sia politico, sociale e soprattutto culturale. Quello che è accaduto qui al Reggio è una storia che continua ancora a ripetersi da anni. La strategia della tensione è una tattica che utilizzano i potenti che si nascondono, si mascherano e mandano altri mezzi per distruggere tutto ciò che si vuole costruire e tutto ciò che si vuole costruire, più che altro comunicare agli altri. Bene, quindi l'arte come strumento anche di denuncia e di lotta, questa cosa ci piace davvero tanto. Ora però c'è qualche altro compagno di Taranto che vuole fare un intervento, vero? Bene. E niente, noi comunque in continuità con quello che si era detto, volevamo ribadire il fatto che noi facciamo Suburbana, che è un festival dell'altra organizzazione sociale che si tiene ogni estate, ormai questa è la sesta edizione, giusto, no? La sesta edizione è auto-organizzato, non abbiamo né padroni politici né padrini economici, e per cui tutto quanto è fatto dalle persone che lo costruiscono, ma non è soltanto un festival musicale o teatrale, è anche un momento in cui si discute, si ragiona, insomma, su tutto quello che potrebbe essere poi da settembre in poi la stagione politica e di lotte. Chiaramente noi ci concentriamo molto su quello che è il nostro territorio e sul ragionamento del nostro territorio, ma non solo, perché poi Suburbana negli anni ha dimostrato, per esempio con le lotte territoriali, di volere assolutamente un confronto anche con tutte quelle lotte che erano in campo, i compagni di Serre, i compagni dei Notav sono scesi tante volte, è venuta anche gente da Reggio qui, compagni del Cartella, insomma, perché poi al di là di tutto, sia sulle lotte territoriali ma sia sulla specificità del sud, siamo assolutamente d'accordo su quello che può essere diciamo il ragionamento, no, rispetto sia alle lotte sia al progetto politico, che poi è quello che ci assilla più in maniera più pressante, insomma. E niente, facciamo questo festival, quest'anno si terrà tra la fine di luglio e inizio di agosto, ancora le date non le sappiamo, per cui è un campeggio, siete un po' tutti e tutte invitate e sarà un bel momento, insomma, dove con la musica e col teatro si riesce anche a ragionare un po' di cose politiche. Oh, bellissimo, questa cosa ci piace tanto, dell'arte legata al sociale e al politico, quindi magari transizione di fase non sappiamo, potrà avvenire anche lì. Non sappiamo, ci auguriamo. Bene, ci sono altri interventi da Taranto, vedo tante facce che mi osservano. Vogliamo parlare del perché siamo qui, da Taranto, per quale motivo prendere un pullman, a parte per bere il vino, vabbè, no, perché il vino è buono. Però, ok, un attimo, perché sennò non ti sentono se non ti do il microfono. Dunque, ci vuoi dire come la vedi tu questa giornata oggi del Cartella? Beh, sicuramente io penso che la giornata di oggi concentra degli elementi abbastanza importanti per quanto riguardano il Sud Italia. Io penso che i compagni e le compagne dei Cartelli in questo momento hanno bisogno della massima espressione della solidarietà, soprattutto perché portano delle questioni che sono vicinissime a tutte le realtà del Sud Italia. Siamo abituati normalmente in questi giorni e qualche settimana fa a parlare su delle situazioni a livello nazionale o forse internazionale, però ci siamo dimenticati che il problema viene discerato proprio a livello locale. E il motivo della nostra presenza qui è quello di far rendere conto ai compagni e alle compagne del Cartella che siamo vicinissime, siamo insieme e siamo insieme anche su qualsiasi progetto rivoluzionario. La cosa più importante è quello di credere, di sapere al 100% di non sentirsi mai solo nelle situazioni, e magari sviscerare a livello più locale potrebbe togliere quell'argine di provincialismo che rende le cose sempre più complicate. Ok, grazie mille, e quindi da Taranto abbiamo avuto questa testimonianza. Io direi di mandare un po' di musica adesso e di aggiornarci. Ciao ragazzi.